Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Oggi è giovedì 16 marzo 1978. Roma, via del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, esce dalla sua abitazione. Lo accompagnano gli uomini della scorta, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Oreste Leonardi. La moglie di Oreste Leonardi, Ileana, se lo ricorda bene quel giorno. Le ho chiesto che cosa fai e lui mi ha detto prendo delle pallottole. Poi mi ha salutato e è andato via. Io ho cominciato la mia giornata normalmente, dopo poco mi chiama e mi dice Ileana ho dimenticato, però non finisce di dirmi che cosa aveva dimenticato perché mi ha detto sta scendendo il presidente, ti devo lasciare, ti chiamo più tardi. Ultimamente andava in giro anche armato perché si era accorto che una macchina lo seguiva, aveva fatto presente questo anche al comando generale dell'arma e c'era stato un episodio in via Savoia di un ragazzo con una motocicletta che l'aveva insospettito e lui gli era corso dietro con la pistola. E poi il presidente aveva l'abitudine all'università di, finita la lezione, di fermarsi con i ragazzi fuori dall'aula. E mio marito adesso in quel periodo non voleva che questo accadesse più perché c'erano state delle avvisaglie. E una volta, qualche giorno prima, proprio del 16 marzo, lui aveva quasi bisticciato con il presidente perché aveva detto che lì erano esposti, erano come al tiro al bersaglio. La scena si sposta in via Fani e anche la nostra visuale. I brigatisti sono già nella loro posizione di tiro. Rita Algranati, all'angolo della strada, con un mazzo di fiori in mano, segnala a Mario Moretti l'arrivo del convoglio di Moro. Raffaele Fiore, Prospero Gallinari, Valerio Morucci, Franco Bonisoli, vestiti da Vieri. Gli altri, Barbara Balzerani, Roberto Seghetti, Alessio Casimiri, Alvaro Loiacono e Adriana Faranda nella base di Via Chiabrera. Il racconto di Valerio Morucci. L'organizzazione di questa azione era pronta per il 16 mattina come uno dei giorni probabili in cui sarebbe potuto o sarebbe anche potuto non passare l'onorevole Moro, perché non c'era certezza, perché avrebbe anche potuto fare un'altra strada. Era stato verificato che passava lì per alcuni giorni, ma non era stato verificato che passasse lì sempre, non c'era stata una verifica di mesi su questi suoi passaggi in via Fani. Quindi il 16 marzo era il primo giorno in cui si andava in via Fani per compiere l'azione, credendo che, sperando, dal punto di vista operativo ovviamente, che passasse di lì quella mattina, altrimenti si sarebbe dovuti tornare il giorno dopo, poi il giorno dopo, fino a che sarebbe stato possibile e non si sarebbe ritenuto invece che dalla presenza di tutte queste persone su quel luogo per più giorni avrebbe comportato sicuramente il rischio di un allarme. La macchina automatico era si mise in seconda fila mentre l'altra rimase dove era. Appena visto entrare, appena visto arrivare il 130 Blé di Moro che curvava da via Trionfale, il 128 corpo diplomatico è partito ad andatura abbastanza sostenuta per evitare di farsi sorpassare, perché solitamente le due macchine andavano abbastanza veloci, e passò davanti al bar Olivetti e frenò bruscamente all'altezza dello stop. A quel punto il 130 tamponò questo 128, l'alfetta di scorta tamponò il 130, il 128 bianco con a bordo le altre due persone si pose dietro per chiudere l'accesso all'altra macchina, la persona che doveva occupare l'incrocio occupò l'incrocio e noi quattro che eravamo dietro le siepi del bar Olivetti uscimmo per sperare sulla scorta. Di queste quattro persone due erano incaricate di sparare sulla scorta e l'altro due erano incaricate di sparare sull'autista sbalzi sull'altra persona che occupava al suo fianco il 130. Io ero tra queste due ultime persone, quindi sparai contro il 130 in cui era venuto da morte. L'azione dura 4 minuti. In via Fani vengono raccolti 93 bossoli. 22 provengono da uno dei 4 mitra in dotazione agli avieri del comando. Le armi usate sono 6, i colpi sono calibro 9 lungo. Gli uomini della scorta vengono tutti uccisi. Moro trasportato nella base di via Montalcini, interno 1. Lo attendono Germano Maccari e Laura Braghetti. L'onorevole Moro, ucciso e la sua scorta massacrata qui in via Mario Fani tra Alito. La scena che ho visto è impressionante. Ci sono cadaveri, credo 4 o 5. Sono ristretto subito in casa per dare la notizia. Avvisate la polizia. GR1, edizione straordinaria. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione. Gli uomini della scorta colpiti e uccisi, non si sa ancora se tutti, dal fuoco del comando. Intanto in via Fani arrivano gli inviati, Paolo Fraiese del TG1. Ci sono 4 morti, mi dice più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, può andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi, sparate evidentemente con mitra, con predatori, il corpo di un altro. Di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete? Poi in panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello dell'Alitalia, ma no, l'Alitalia non ha quei gradi, ma non ha quei gradi l'Alitalia sopra il berretto e il caricatore di un mitra, forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, ragione. Stavo pestando inavvertitamente i bossoli. Ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante. Non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, la una pistola automatica. Ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa. Quattro corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina, attento per terra il bosso, ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari, proviamo a cercare. E Giuseppe Marrazzo del TG2 raccoglie importanti testimonianze. Questa finestra, sì. Lei ha potuto vedere esattamente questo giovane... Questo uomo che era un pochino più alto di Moro all'incirca. Come altezza, era un pochino più alto di questo dell'altro che veniva rapito. Sì. Lui era vestito di chiaro, quello che veniva rapito era vestito di scuro invece. Ecco, e ha visto che questo rapito, diciamo... Sì, che camminava. E appunto... Non sembrava ferito. No, e lo prendeva con il braccio, lo prendeva. Sì. E questo, diciamo, con l'impermeabile... prendeva quello, il rapito, per il braccio e lo portava, ma molto calmi erano, non erano concitati, non correvano. E dove l'ha fatto salire? L'ha fatto salire in una 128 scura, blu, sì, che si dirigeva poi verso via Trionfale, su via Tresa naturalmente. Sì, però io ero in camera mia, visto là ci sono dei fori, sì. Nella camera da bagno, io ero nella camera appresso. Cioè, nella mia camera da letto, fortunatamente stavo ancora a letto, ho sentito dei rumori. Cioè, ho sentito anche delle voci. Sì, ho sentito addirittura delle grida, poi le parole di un uomo. Di tanti uomini e anche di una ragazza. Ho sentito anche la voce di una ragazza, adesso che fosse una passante o meno, questo qua non lo so. Che diceva questa ragazza? No, senta, io non ho sentito, la voce di una persona anziana, cioè distintamente, che diceva lasciatemi, poi delle altre voci molto giovani, secondo me, che facevo, no, quello no. Aldo Moro si trova nella cosiddetta prigione del popolo. Mario Moretti e Prospero Gallinari indossano i loro cappucci. Inizia a quel punto l'interrogatorio. Intanto alla Camera Pietro Ingrao sospende i lavori e annuncia il rapimento. Ci sono i colleghi di levarsi in piedi per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico che è stato compiuto stamane. In Piazza del Gesù parla il segretario della Democrazia Cristiana, Benigno Zaccagnini. Tutti sanno che Aldo Moro rappresenta un bene prezioso per il nostro partito. L'auspicio è che possa essere messa in atto ogni azione capace di far fallire lo scopo di questa criminosa attività. E i sindacati proclamano lo sciopero generale. In piazza prende la parola Luciano Lama, segretario della CGIL. Che lo Stato democratico si difenda con le leggi che ha, utilizzando gli uomini che ha, tutti i suoi uomini, e noi dobbiamo essere i suoi uomini. Nella notte il governo Andreotti ottiene la fiducia, c'è l'appoggio dei comunisti. Giulio Andreotti in Parlamento. Imboscata tesa stamane all'onorevole Moro, con l'uccisione di 4 agenti dell'ordine ed il rapimento del nostro collega, pone angosciosi quesiti al nostro animo e rafforza in ognuno di noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere al limite delle umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione. Tra poco, dopo la pausa, torna il racconto del giallo e nero sul rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e dei 5 uomini della sua scorta. Giallo e nero. Moro resta sequestrato 55 giorni, prigioniero delle Brigate Rosse. Il 18 marzo le BR emettono il primo comunicato. Giovedì 16 marzo un nucleo armato delle Brigate Rosse ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata. Lo stesso giorno a Roma, gli inquilini dello stabile di via Gradoli 96, interno 11, sentono rumori sospetti e chiamano la polizia. Arrivano le forze dell'ordine ma rinunciano alla perquisizione. In quell'appartamento vivono Barbara Balzerani e Mario Moretti. I brigatisti processano Moro nel covo di via Montalcini, diffondono i loro comunicati e il 29 marzo fanno recapitare 3 lettere dello statista. La prima per la moglie Eleonora. La seconda per Nicola Rana, la terza indirizzata al ministro dell'interno, Francesco Cossiga. Caro Francesco, mentre ti indirizzo un caro saluto, sono indotto dalle difficili circostanze a svolgere dinanzi a te, avendo presenti le tue responsabilità, che io ovviamente rispetto, alcune lucide e realistiche considerazioni. Penso che un preventivo passo della Santa Sede, o anche di altri, e di chi, potrebbe essere utile. Converrà che tenga d'intesa con il Presidente del Consiglio riservatissimi contatti con pochi qualificati capi politici, convincendo gli eventuali riluttanti. Un atteggiamento di ostilità sarebbe una strattezza ed un errore. Che Dio vi illumini per il meglio, evitando che siate impantanati in un doloroso episodio, dal quale potrebbero dipendere molte cose. I più affettuosi saluti. Il 30 marzo giunge la lettera di Moro a Benigno Zaccagnini. Caro Zaccagnini, scrivo a te, intendendo rivolgermi a Piccoli, Bartolomei, Galloni, Gaspari, Fanfani, Andreotti e Cossiga, ai quali tutti vorrai leggere la lettera e con i quali tutti vorrai assumere le responsabilità che sono ad un tempo individuali e collettive. Parlo innanzitutto della DC, alla quale si rivolgono accuse che riguardano tutti, ma che io sono chiamato a pagare con conseguenze che non è difficile immaginare. Certo, nelle decisioni sono in gioco altri partiti, ma un così tremendo problema di coscienza riguarda innanzitutto la DC, la quale deve muoversi, qualunque cosa dicono o dicano nell'immediato gli altri. Parlo innanzitutto del Partito Comunista il quale, pur nella opportunità di affermare esigenze di fermezza, non può dimenticare che il mio drammatico prelevamento è avvenuto mentre si andava alla Camera per la consacrazione del governo che m'ero tanto adoperato a costituire. Il 15 aprile le Brigate Rosse annunciano la condanna a morte di Aldo Moro e tre giorni dopo i poliziotti entrano nel covo di via Gradoli, ma di Mario Moretti e Barbara Balzerani nessuna traccia. Il 18 aprile un falso comunicato parla dell'avvenuta esecuzione di Moro e del ritrovamento della sua salma nelle acque del lago della Duchessa in provincia di Rieti. Il 22 aprile Paolo VI chiede che Moro sia liberato senza condizioni. Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. L'abbiamo trepidato ieri, alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi, giudici unilaterali e carnefici. E trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo, e specialmente alla famiglia, agli amici. Il 30 aprile Mario Moretti telefona a Eleonora Moro. Senta, io sono uno di quelli che sarà qualcosa a che fare con suo padre. Devo fare un'ultima comunicazione. Sì. E noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati e probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono, non servono assolutamente niente. Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatore in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che noi non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente? Sì, l'ho capita benissimo. Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che competono, che ci competono, e vorremmo appunto, siccome il padre siete crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. Il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la democrazia cristiana. Abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene, non posso discutere, non sono interessato a farlo, devo semplicemente fare questa comunicazione. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle. Siamo il 9 maggio 1978. È il giorno dell'epilogo finale. Mario Moretti uccide Aldo Moro nel garage di via Montalcini. Poi con Germano Maccari carica il corpo dello statista su una Renault 4 rossa e si dirige in via Caetani. Poco dopo Valerio Morucci telefona al professor Tritto, stretto collaboratore di Aldo Moro. Chiama da una cabina della stazione Termini. Accanto a lui c'è Adriana Faranda. Chi parla? È il dottor Nicolai. Chi Nicolai? È lei, professor Franco Tritto? Sì, sono io. Mi sembrava di riconoscere la voce. Senta, indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia. Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigate Rosse. Lei deve comunicare alla famiglia? Sì. Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Sì. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Per forza sì, no. Mi dispiace, ma se lei telefona verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatta. corpo di Moro è rannicchiato nel bagagliaio dell'auto. C'è chi piange e chi prega, chi tocca il vetro con la mano. Via Caetani sta a due passi da Botteghe Oscure e Piazza del Gesù, come ricorda Bruno Vespa al TG1. Il corpo di un uomo è stato trovato in una macchina in via Caetani. Caetani è nel cuore di Roma, è vicino a Via delle Botteghe Oscure, a pochi passi dalla sede del Partito Comunista, a un centinaio di metri dalla sede della Democrazia Cristiana, quella sede in cui per 54 giorni i dirigenti sono rimasti sempre riuniti per aspettare una notizia che si presumeva, grazie a Dio, una notizia che si presumeva meno tragica di adesso. Dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, hanno, ecco, è arrivata la conferma. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle Botteghe Oscure in una R4 russa. E in via Montalcini, interno 1, Germano Maccari, brigatista, ripulisce la cosiddetta prigione del popolo. Avuto un gesto terribile che mi avrebbe segnato per tutta la vita. Quindi mi rimaneva di smantellare la prigione, cioè di riportare l'appartamento, diciamo così, alla sua normalità, di cancellare ogni traccia sulle pareti, sul pavimento, di quella che era stata la prigione insonorizzata. Quindi lasciai questa via e mi recai in via Montalcini pensando a tutte queste cose. L'omicidio di Aldo Moro e degli uomini della scorta è un affronto alle istituzioni del paese, al sistema dei partiti, alla vita civile e democratica. La famiglia rifiuta manifestazioni pubbliche, funerali di Stato, nessun lutto, medaglia alla memoria. E resta nel suo doloroso silenzio, perché sulla vita e sulla morte di Aldo Moro possa solo giudicare la storia. Il De Profundis, il grido, il pianto dell'ineffabile dolore con cui la tragedia presente soffoca la nostra voce. Adempiamo le ultime volontà del Presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Signore, ascoltaci, e chi può ascoltare il nostro lamento se non ancora tu, o Dio della vita e della morte? Tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro. Trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Che cosa dovrei fare? Mi sente? No, si può ripetere il cortesino. Non posso ripetere. E noi, tuttora viventi in questa giornata di un sole che inesorabilmente tramonta. Lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Via Caetani. Aldo e tutti i viventi in Cristo beati nell'infinito Dio, li rivedremo. Il nostro cuore sappia perdonare l'oltraggio ingiusto e mortale inflitto a quest'uomo carissimo e da quelli che hanno subito la medesima sorte crudele. Caetani, via Caetani.